giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scossa di magnitudo 3.4, poco dopo le 2.30 della notte a Frisanco, un paio le chiamate ai vigili del fuoco, nessun danno. Varsila pronti al blocco totale per non imbarcare i motori destinati alla Corea a Trieste, manifestazione il 3 settembre. Congiunturale positiva per il manifatturiero regionale, ma Confindustria avverte i prossimi mesi saranno una sfida. Verso il voto si delinea il calendario delle visite dei big in regione, Salvini sarà a Marano, poi Meloni a Udine. 14 casi di West Nile in regione, scattano questa sera le disinfestazioni in alcuni comuni a nord di Udine. In rianimazione un'automobilista travolta da un trattore ad Amaro, alla guida del mezzo agricolo una friulana trentenne. Sanità, da settembre torna la chirurgia programmata e ortopedica a Palmanova, Cividale, 17 letti in più di cure intermedie. Con il gas alle stelle si torna la stufa a legna, ma il pellet è carissimo. Austria, Croazia e Bosnia hanno vietato l'esportazione. La sostenibilità necessaria e il ruolo delle imprese, l'economista Chiara Mio presenta il suo nuovo libro oggi a Lignano. La pallanuoto a Trieste scalda i motori, nel settore maschile due nuovi ingressi, le orchette oggi in vasca con il nuovo allenatore. 7:19 di giovedì 25 agosto, buongiorno da Anna Vitaliani. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è sereno o poco nuvoloso sulla regione. Alle 6 c'erano 24 gradi a Trieste, mare quasi calmo con temperatura di 24,5 gradi. A Gorizia 21,5 gradi, a Udine e Pordenone 19,5 gradi. A Tolmezzo 18 gradi, a Forni di Sopra e Tarvisio 14, sul Piancavallo 12 gradi, a Sappada 10, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Lussari 11, a Lignano e Grado 24,5 gradi, temperatura del mare 26 gradi. Le previsioni dell'ARPA, oggi al mattino tempo stabile, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso e borino sulla costa. Dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio, isolato temporale sui monti, non escluso localmente anche su qualche zona di pianura. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter è stata registrata dal CRS, il Centro di Ricerche Sismologiche, alle 2:34 di questa notte a Frisanco, nel Pordenonese, a darne riscontro la Protezione Civile. La scossa è avvenuta a una profondità di 8,5 km. I vigili del fuoco di Pordenone hanno registrato due chiamate di persone spaventate, ma non sono stati necessari interventi di soccorso, né sono stati registrati danni alle abitazioni. Parliamo ora dell'avvertenza Varsila. I sindacati hanno confermato la manifestazione che si terrà tra 10 giorni a Trieste contro la decisione del gruppo finlandese di cessare la produzione a Bagnoli della Rosandra e licenziare circa 450 dipendenti. I lavoratori del porto sono intanto pronti per solidarietà ad impedire il carico di 12 grandi motori che dovrebbero raggiungere la Corea. E oggi alle ore 15 il collettivo lavoratori di Varsila ha organizzato un'assemblea aperta con la partecipazione di un consulente legale che risponderà alle domande dei lavoratori sulla procedura a cui sono stati sottoposti dall'azienda al servizio. Il 14 settembre saranno passati 60 giorni dall'inizio dell'avvertenza da parte della Varsila per il licenziamento di 451 lavoratori e la fine della produzione. Una corsa contro il tempo per ottenere il ritiro della procedura o quantomeno una sua sospensione. Anche se la proprietà continua a tenere chiusa la porta a qualsiasi trattativa. L'appello dei sindacati è per la manifestazione pubblica di sabato 3 settembre a sostegno dei lavoratori, ma anche di tutto l'indotto, il primo della lista, destinato a subire le conseguenze della decisione della Varsila di cancellare la produzione nello stabilimento di San Dorligo della Valle. Ci saranno i segretari nazionali di CGL, CISL e UIL, ma c'è un'altra scadenza importante. Sabato prossimo, fra meno di 72 ore, l'arrivo della nave proveniente dal Marocco, che dovrà ritirare e trasportare i motori destinati ad un'azienda sudcoreana. I sindacati puntano alla solidarietà di tutti per impedire il carico. Alessandro Gavagnin, CISL Trieste. Faremo un giro di assemblea adesso, sia per quanto riguarda tutte le attività portuali, che le attività di Varzia, che le attività di indotto di Varzia, qui in questo momento dove sono stivati i motori per Celsi Metal. Da là proclameremo uno sciopero a oltranza, in modo da cercare sicuramente di non far salire questi motori, ma non farli uscire né dalla fabbrica né dove sono in questo momento posteggiati. Non finisce qua, aveva detto il ministro Giorgetti al primo tavolo convocato al MISE dopo il rifiuto alla trattativa della Varzila. Marco Relli, CGL Trieste. È evidente che noi abbiamo assolutamente bisogno di un intervento dello Stato italiano, perché questa è una vertenza che non è esclusivamente, tantomeno territoriale, nazionale, ma con valenza internazionale per tutto ciò che è successo. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cresce la produzione, cresce anche l'occupazione, resta però la difficoltà a reperire i profili ricercati. L'indagine congiunturale del secondo trimestre di Confindustria Friuli Venezia Giulia, aprile, maggio e giugno, registra un aumento della produzione dell'1,9% rispetto al primo trimestre dell'anno. Vanno bene però solo alcuni settori, la siderurgia con quasi 6 punti in più, il legno e mobile più 6,5%, la carta, i materiali da costruzione. Calano invece la produzione di meccanica di quasi 7 punti, l'alimentare e la gomma e plastica. Ad elaborare l'indagine l'ufficio studi di Confindustria Udine, che registra anche un aumento dell'occupazione dell'1,2%. Gli analisti però guardano con preoccupazione al futuro, specie per l'impennata del prezzo del gas e il possibile stop delle forniture. Probabile inoltre il calo dei consumi a causa della congiuntura economica delle famiglie. La nostra è un'imprenditoria tenace e flessibile, ma ha dichiarato in una nota Gianpietro Benedetti, presidente reggente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Ci attendono mesi sfidanti con tanti elementi incerti rispetto alla geopolitica, ai costi energetici e all'andamento della pandemia. È fondamentale, ha concluso Benedetti, che il nuovo governo supporti l'imprenditoria per mantenere il PIL e aggiorni le leggi sull'immigrazione per garantire la manodopera necessaria, evitando clandestinità e irregolarità. La politica, manca un mese esatto al voto e cominciano a riempirsi le agende dei leader nazionali. Il primo ad arrivare in regione dovrebbe essere Matteo Salvini. Intanto sono state escluse dalla corsa per documentazione irregolare 7 liste che annunciano ricorsi. Terminata la fase della definizione delle candidature, i partiti scaldano i motori per la campagna elettorale a un mese dall'apertura dei seggi il 25 settembre. La vicinanza della data del voto e il periodo agostano comprimono i tempi. Proprio in questi giorni si stabiliscono le agende dei leader nazionali. Il primo dovrebbe essere il leghista Matteo Salvini, atteso il 5 settembre a Marano Lagunare, ma si parla di un secondo passaggio più a ridosso delle elezioni. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, dovrebbe arrivare l'8 o il 9 settembre a Udine in occasione di Friuli Doc. Questi finora gli unici appuntamenti fissati o ipotizzati tra le maggiori forze politiche. Per loro nessuna sorpresa dalla decisione della Corte d'Appello, che ha ammesso 16 liste, di cui 8 appartenenti alle due coalizioni. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati per il centrodestra, Partito Democratico, Più Europa, Verdi Sinistra e Impegno Civico per il centrosinistra. Partecipano in autonomia Movimento 5 Stelle, Azione Italia Viva, Unione Popolare, Per l'Italia con Paragone, Vita, Mastella Noi di Centro, Italia Sovrana e Popolare e Alternativa per l'Italia No Green Pass. La Corte d'Appello ha invece bocciato 4 liste alla Camera e 3 al Senato. Si tratta di Gilea Arancioni e Partito Animalista per entrambe le Camere, Destre Unite, che si era proposta solo per Palazzo Madama, Forza Nuova e Partito Pensiero e Azione, presenti solo per Montecitorio. Per tutti la causa è la mancanza di firme. Sono stati annunciati ricorsi alla Corte di Cassazione, che si esprimerà entro 2 giorni. Domenica o lunedì l'estrazione per stabilire l'ordine dei simboli nella scheda. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora 2 appuntamenti politici alle 18.30 al Caffè San Marco, apertura della campagna elettorale del PD a Trieste con Gianni Cuperlo, candidato alla Camera del Collegio Plurinominale di Milano, e Caterina Conti, segretaria provinciale candidata alla Camera nel Collegio di Trieste Gorizia. Si parlerà dei pilastri del programma, lavoro, sviluppo sostenibile, bisogni delle famiglie e servizi, ma anche della crisi industriale che sta colpendo Trieste. Scatterà questa sera in alcuni comuni friulani il piano regionale di disinfestazione contro le zanzare portatrici del virus West Nile, dopo che sono stati trovati animali positivi al virus nelle località di Adegliaco, un pony e Atolmezzo e Verzegnis, due volatili. Convocati ieri in videoconferenza tutti i sindaci dei comuni interessati. Nel caso di Adegliaco le operazioni di disinfestazione riguarderanno un raggio di 4 km e interesseranno Pagnacco, Tavagnacco, Povoletto, Tricesimo, Reana del Royale e la zona nord del comune di Udine. Durante la disinfestazione le finestre vanno tenute chiuse, animali, cibo e biancheria al riparo. Nel corso del fine settimana la disinfestazione riguarderà anche alcune aree dei comuni di Tolmezzo e Verzegnis. Sarà utilizzato un prodotto che non è un insetticida ma una sostanza per il 30% biologica che si autodegrada al suolo dopo 2 o 3 ore, avendo però un'efficacia contro le zanzare che dura dalle 6 alle 8 settimane. Analoghi trattamenti nei prossimi giorni anche in alcuni comuni del Pordenonese. Ad oggi i casi di West Nile riscontrati in Friuli Venezia Giulia sono 14. Alcune persone presentano lieve sintomatologia. Le situazioni più complesse hanno richiesto il ricovero in ospedale. Per nessuno dei casi è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. Nel presidio ospedaliero di Palmanova ripartirà a settembre l'attività di chirurgia programmata e di chirurgia ortopedica sospesa a causa della pandemia. Riapriranno anche i posti letto di riabilitazione. Previsto per il 1 settembre anche l'incremento di 17 posti letto di cure intermedie nel presidio distrettuale di Cividale, che si affiancheranno ai 28 posti letto di RSA già attivi. Il centro di riferimento oncologico di Aviano apre le porte a 5 nuovi ricercatori in campo oncologico. Il bando di concorso scade il 18 di settembre. Il CRO di Aviano assume nuovi ricercatori. È il primo reclutamento dopo la riforma del comparto sanitario per la ricerca voluta dal Ministero della Salute. Sono stati pubblicati i primi 5 bandi di concorso, reperibili nella sezione concorsi del sito web dell'Istituto, per l'assunzione a tempo determinato di 2 ricercatori sanitari e 3 collaboratori della ricerca. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 settembre. Saranno assunti con un contratto di 5 anni rinnovabili per altri 5 in seguito a valutazione positiva. Un segno importante di vitalità del mondo della ricerca, secondo la direttrice scientifica Silvia Franceschi. Si tratta di una prima risposta concreta, anche se in ritardo e dopo diverse iniziative per sollecitare le assunzioni, commenta Pierluigi Benvenuto della CGIL. Il prossimo passo è a livello ministeriale per stabilizzare i ricercatori con contratti a tempo indeterminato. A breve, fanno sapere dall'Istituto, saranno pubblicati altri 4 bandi. Ci aspettavamo più posti, considerato l'alto numero di borsisti di ricerca attualmente in servizio presso l'Istituto e che sono costantemente reclutati, commentano i ricercatori che contano nella graduatoria. Ogni bando avrà infatti una graduatoria valida 2 anni da cui si potranno attingere i nuovi ricercatori. Siamo contenti che qualcosa si stia muovendo, aggiungono, ma non dimentichiamo che ad oggi il futuro per il personale di ricerca tempo determinato è ancora incerto. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca è stata travolta da un trattore mentre era a bordo della sua auto lungo la statale 52 Carnica all'altezza di Amaro. Ricoverata in gravi condizioni in rianimazione a Cattinara, Martina Vidussi, una giovane di 36 anni di Osopo, era rimasta incastrata all'interno del veicolo. Alla guida del trattore, secondo una prima ricostruzione, una trentenne originaria di Artegna rimasta illesa. Il trattore avrebbe invaso la corsia di marcia dell'automobile. Immediato il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre la donna gravemente ferita dall'abitacolo. È stata subito intubata sul posto e trasferita con l'elisoccorso regionale al pronto soccorso del Cattinara di Trieste ad indagare sulle cause dello scontro. La polizia locale di Tolmezzo. Intervento del soccorso alpino di Maniago per un escursionista 73enne di Como, ruzzolato per circa 25 metri lungo un ghiaione mentre percorreva l'anello del monte Cereis che corre sopra Navarons e Redona. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi parlando di una lussazione alla spalla e dicendo di trovarsi vicino alla nuova falesia, dove però non è stato trovato. Per localizzarlo sono state utilizzate le coordinate del GPS. L'uomo presentava diverse ferite tra cui una al capo, ed è stato recuperato dall'elisoccorso regionale. Soccorso dai tecnici della stazione di Pordenone anche un ciclo escursionista di 62 anni che stava rientrando da una pedalata con la mountain bike lungo il Troi del Cinghiale in Piancavallo. L'uomo è caduto e ha riportato un forte trauma al torace, oltre a diverse contusioni. A guidare i soccorritori, due giovani ciclisti che avevano notato l'uomo a terra. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile proprio in questi minuti sulla spiaggia di Marina Giulia Monfalcone. Si sta decidendo se sia opportuno aprire ai bagnanti il tratto di costa già dalle ore 8 di questa mattina, dopo le operazioni di pulizia fatte sulla battigia ieri da parte della ditta incaricata dal Comune. La Protezione Civile sta valutando dunque per capire se è stato smaltito il cumulo di catrame accumulatosi a terra sulle alghe e rocce dopo l'abbondante quantità di olio combustibile sversato in mare, probabilmente durante un'operazione di rifornimento di una nave delle isole Marshall e tuttora ormeggiata in porto. Il divieto di balneazione è stato imposto fino alle 8 di questa mattina, ma dopo il sopralluogo in corso la Protezione Civile potrebbe eventualmente far prorogare ancora il divieto. Prosegue l'indagine per attribuire le responsabilità del grave incidente avvenuto 2 giorni fa. E torniamo a parlare di caro bollette, che orienta sempre di più i consumatori verso l'acquisto di stufe, ma anche qui i prezzi lievitano. Il pellet è diventato fonte di energia così strategica che Austria, Croazia e Bosnia ne hanno vietato l'esportazione. Chi non ha stufe o cucine alimentate a biomasse legnose e, visti i prezzi del gas alle stelle, pensa di installarne una, rischia di non trovare sul mercato prodotti di qualità per l'inverno, consegne addirittura in primavera. Ordinativi in aumento anche per questo storico produttore di termocucine, cucine e stufe a legna di Fagagna. Ma ora che il sacco da 15 kg di pellet costa 3 volte tanto e i bancali di legna da ardere sono irreperibili, questo è il momento in cui la si mette in cascina, bisognerà aguzzare l'ingegno in vista del freddo. Eric Furlano, titolare del negozio a Fagagna. Il mio consiglio, appunto, volendo andare a pellet, è avere una macchina sinceramente gestita da remoto tramite applicazione, così per oculare un attimino quella che è la spesa e la gestione del combustibile. Nuove strategie di economia domestica per le famiglie friulane, tenendo a mente che la legna costa meno in termini di gestione, ma non di sacrificio, e che tutto dipende dal valore assegnato al proprio tempo. Difficile che uno che andava a pellet adesso passi a legna, però implementa l'impianto. Quindi cosa fa? Se ha già la stufa a pellet in sala, magari in cucina trova uno spazio per mettere una cucina a legna o piuttosto una stufa a legna da un'altra parte, proprio per riuscire a gestire le due cose quando c'è e quando non c'è a casa. Oppure ci sono adesso delle stufe molto valide, ibride, dove io posso andare a pellet quando non ci sono e rientrando a casa passo a legna. Secondo Furlano, sarà necessario tornare ad attingere ad un'ormai dimenticata cultura del risparmio. Io dico, oggi non è tanto freddo che non lo accendo, è comunque un risparmio rispetto a una spesa fissa che comunque sia sarebbe una bolletta, quindi bisogna un attimino imparare a modulare e magari quest'anno accontentarsi di 1-2 gradi in meno, che farebbe bene all'ambiente tanto quanto tutte le norme che ci sono sulle emissioni. Fagagna, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E nella nostra regione c'è un piccolo comune di 800 abitanti campione di sostenibilità energetica, in grado di produrre tutta l'energia che serve sfruttando fonti di energia pulita. Forni di Sopra è l'unico comune in Friuli Venezia Giulia ad avere un'autosufficienza energetica grazie a 2 centrali idroelettriche e ad un moderno impianto fotovoltaico. Quanto al riscaldamento, la locale centrale a biomassa riesce a coprire una parte degli utenti del piccolo comune dolomitico. Una località virtuosa in tema di energia ricavata interamente da fonti rinnovabili in virtù del lavoro della cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra e dell'amministrazione comunale, che riescono a produrre mediamente ogni anno 4 milioni di kilowatt, una quantità sufficiente per il fabbisogno del territorio. Una cooperativa senza fini di lucro con oltre 2.000 utenze a Forni di Sopra su 800 residenti, a cui gli utenti pagano tariffe imposte dalle autorità per l'energia, ma che distribuisce a tutti i soci i dividendi, che grosso modo corrispondono in un anno ad 1/3 di una bolletta bimestrale. Gino Corradazzi, presidente della cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra. La società, che è nata già nel 1925 per volere di tutti i capi famiglia, famiglia di Forni di Sopra. Abbiamo tentato di tenere duro nei vari decenni e siamo arrivati ad avere, diciamo, un'autonomia. Poi c'è il capitolo del teleriscaldamento. La locale centrale a biomasse forestale riesce ad inviare acqua calda a tutti gli edifici pubblici e ad una parte dei soggetti privati, tra cui alcuni alberghi e strutture commerciali. Marco Ferigo, dell'ufficio tecnico del Comune di Forni di Sopra. Questo sistema permette al Comune di utilizzare il legname proveniente dai boschi che altrimenti non avrebbe un utilizzo, e parliamo di circa 12.000 quintali all'anno, e dall'altra di avere queste utenze collegate che hanno sicuramente dei grossi risparmi, parliamo di circa un 20-30% rispetto a quelle che sono le spese di riscaldamento da utilizzando un combustibile tradizionale. Essendo un territorio che vive soprattutto di turismo, si è pensato di realizzare lungo il fiume Tagliamento un ecomuseo all'aperto, dove sono presenti diversi percorsi, tra cui quello dell'energia, dove vengono illustrati gli impianti locali per la produzione sostenibile. Elena Sburlino, della Proloco di Forni di Sopra. Volevamo appunto trasmettere la nostra particolarità anche ai visitatori che vengono a visitare la nostra zona. Forni di Sopra, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Partiranno a ottobre i lavori di demolizione della ex Dormish di Udine, dove grazie all'investimento del gruppo Danieli troveranno posto la nuova sede del Malignani, un'area verde e una piazza coperta per eventi. Contemporaneamente al cantiere verrà prosciugato per alcuni mesi il canale Ledra per effettuare lavori di manutenzione. La demolizione sarà completata entro fine anno. A gennaio dovrebbero prendere il via i lavori di costruzione delle nuove strutture. Per l'utilizzo dell'area verde della piazza coperta sarà stipulata una convenzione tra Comune di Udine e Danieli. Relativamente alla viabilità, in programma la realizzazione di una rotatoria e di un centinaio di parcheggi interrati. Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda al futuro. È questo, in sintesi, il paradigma dell'azienda sostenibile Editori La Terza. Il saggio che l'economista e presidente di Credit Agricole Friuli Adria, Chiara Ammio, presenterà alle 18.30 al Palapineta di Lignano in occasione degli incontri con l'autore e con il vino promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio. Al telefono abbiamo raggiunto l'autrice, che ci spiega come la sostenibilità oggi sia diventata soprattutto necessaria. È sdoganato il fatto che ormai dobbiamo avere sistemi economici, sistemi sociali che puntino alla sostenibilità. È fondamentale che il settore privato, cioè le aziende, operino e contribuiscano a questo. Un'azienda sostenibile deve essere sostenibile anche con i propri dipendenti. C'è un tema emerso dopo la pandemia, quello dello smart working, visto prima come un bene, poi come un male, poi di nuovo come un bene perché molti lavoratori ora lo pretendono nel proprio luogo di lavoro. Lei cosa ne pensa? Sostenibilità a tre gambe, il tema ambientale, il sociale e la governance. Stiamo parlando di un tema dentro il sociale, i lavoratori e in particolare le aziende di servizio, ovvero le aziende dove il capitale umano è fondamentale, non possono che trattare in maniera consona la risorsa più importante, che sono le persone. Quindi per tutti i lavori dove è possibile conciliare momenti in presente e momenti in smart, questa è l'evoluzione dei tempi e le aziende devono andare in quella direzione. Faccio presente però che ad esempio i lavori di cura, i lavori di hotelleria o di ristorazione, i lavori di vendita non danno questa possibilità. È ovvio invece i lavori di back office la danno e non si capisce perché non si debba andare in quella direzione. Con le elezioni ormai alle porte, che cosa si aspetta che il nuovo governo faccia a favore delle imprese e per la sostenibilità? Per le imprese sarebbe molto importante avere non solo la solita proposta di rendere meno pesante il fisco per le aziende sostenibili, ma di incentivare le aziende a lavorare in modo sostenibile, soprattutto facendo leva su quella che si chiama la supply chain, la catena di fornitura ai piccoli, cioè mettere in moto quei meccanismi di finanziamento e di agevolazione per le imprese che creano valore e lo lasciano sul territorio. Ecco, il governo potrebbe fare molto in questo senso, aveva già cominciato il governo Draghi e quell'azione lì va assolutamente continuata. Riunione a Palmanova tra la Regione e le società idriche che operano in Friuli Venezia Giulia per stilare una lista degli interventi urgenti per contrastare l'emergenza siccità, interventi per i quali il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha già stanziato 4.200.000 euro. Nei prossimi giorni sarà fornito l'aggiornamento delle opere da parte di CAFCI, Idrogea, Livenza Tagliamento Acqua, Irisacqua, Acegas, APS Amga, Acquedotto Poiana e Autostrada l'autorità unica per i servizi idrici e rifiuti. Oltre agli interventi di emergenza attuati immediatamente, si discuterà anche di ulteriori possibili opere da realizzare, inizialmente non incluse tra quelle finanziate dalla Protezione Civile Nazionale. Le frecce tricolori ritornano ad esibirsi oggi a Grado con l'air show che inizierà alle 17. Lo spettacolo sarà visibile da tutto il litorale, in particolare dalla spiaggia principale Gite e dal lungomare di Ganazzario Sauro. Come da tradizione, l'accesso alla spiaggia in occasione dell'esibizione della PAN, la pattuglia acrobatica nazionale, è previsto alle 18 circa ed è gratuito. La spiaggia è infatti il punto centrale d'osservazione dell'esibizione aerea. E sempre sulla spiaggia di Grado, fino a domenica 23esima edizione del Backgammon on the Beach, due giornate di lezioni gratuite per imparare l'antico gioco, un torneo il sabato e il campionato vero e proprio la domenica. Si inizia oggi alle 21. E siamo allo sport, al via l'allenamento delle Orchette, squadra di Serie A1 femminile di Trieste. Alle 11 inizia presso lo stabilimento balneare Ausonia la preparazione delle giovani atlete agli ordini del nuovo allenatore napoletano Paolo Zizza, già allenatore della nazionale di pallanuoto femminile. Oggi in allenamento non ci saranno Lucrezia Cergol e Ilenia Vukovic, impegnate in nazionali le giovani Emma De Marc e Guia Zizza, che si uniranno al gruppo nelle prossime settimane. Al telefono abbiamo raggiunto l'allenatore che alle 6.30 di questa mattina ha lasciato Napoli alla volta di Trieste. Sentiamo con che spirito è partito. Grande entusiasmo di iniziare questa nuova avventura con la Pallanuoto Trieste, per cui sono molto contento di incontrare la squadra, di proiettarci immediatamente nell'inizio di questa stagione. La squadra maschile triestina è tra le prime in Italia, quella femminile, quali margini di crescita ha secondo lei? Ma è stato un bel progetto, mi è entusiasmato subito e mi è piaciuto tanto di lavorare tanto con tre triestini e tanti ragazzi giovani anche dalle altre società che sono arrivate quest'anno. C'è grande progettualità e credo che sia importante proprio per una crescita della squadra femminile. Ci vorrà pazienza, però sono convinto il tempo darà ragione chiaramente a questo progetto. Lei sarà anche il coordinatore del settore giovanile. Come si fanno crescere le nuove leve che poi diventeranno atlete di punta? Di sicuro di farlo appassionare immediatamente a questo mondo fantastico della pallanuoto femminile, chiaramente di stare insieme a uno sport di squadra, di saper stare insieme alle altre e attraverso il gioco e allo spogliatoio sicuramente faremo senz'altro bene in cercare di farla passare quanto più attraverso possibile e creare un reclutamento importante proprio per la società. Conosce la città di Trieste, come la aspetta? Ma ci sono stato tante volte, mi piace tantissimo, è una città che mi sarebbe piaciuto starci assolutamente adesso, quindi avrò anche questa possibilità di poterci vivere e conoscere ancora meglio e a fondo. Sono convinto mi troverò bene, è una città mea di mare, aperta come la mia città, è Napoli, per cui sono convinto di trovarmi assolutamente bene. E ieri sempre al bagno Ausonia di Trieste è presentata la squadra della pallanuoto maschile, tutti riconfermati, ci sono anche due nuovi ingressi in squadra. Ripetere il miglior risultato della propria storia in campionato. Le bracciate della Pallanuoto Trieste peseranno il doppio in questa stagione, ma l'obiettivo non fa paura. Al raduno una rosa confermata in blocco dopo la semifinale scudetto persa con Brescia e due nuovi innesti in acqua. Giuseppe Valentino, 32enne difensore proveniente dallo Strasburgo, e un giovane portiere, Francesco Ghiara, 25 anni, da Bologna. Nella testa invece potrà servire il ricordo della semifinale playoff persa. Daniele Bettini, allenatore Pallanuoto Trieste. Ripensare a quelle partite dà ancora fastidio, fa ancora male, perché abbiamo accarezzato il sogno, abbiamo sfiorato il sogno di una finale scudetto, proprio per quello che la nostra stagione deve partire da quelle basi, da quel punto di partenza. Ci sono i croati Buljubasic in difesa, Bego e Verlic centroboa, il giapponese Inaba in attacco e il capitano Ray Petronio, che non nasconde il suo obiettivo. Quello che a me interessa più di tutto è la Coppa Europea, io voglio arrivare in fondo e la voglio vincere, quindi andiamo, cominciamo carichi e proviamo a fare un grosso risultato. Il campionato partirà il 22 ottobre, mentre l'attesissima Eurocup il 14 ottobre, con il round di qualificazione ancora da definire. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cultura, il festival multimediale Dobby Arte 20 compie 20 anni e si svolgerà da stasera interamente a Staranzano nella sede dell'associazione in via Vittorio Veneto, 3 serate da oggi a sabato in cui si intrecceranno diversi percorsi e linguaggi creativi con artisti e progetti locali. Questa sera alle 21 si esibiranno diversi artisti tra cui Alexander Coruga, il collettivo Nebbiosa e poi Nickel Cosmo. Alcuni appuntamenti al Giardino Pubblico di Trieste questa sera, lo spettacolo Nozioso Disinteresse, un fantasioso incanto, a cura di Stefano Dongetti con Adriano Giraldi, produzione Bonaventura. Alle 18 nel parco di Palazzo Coronini-Cromberg verrà riproposto l'incontro Mukashi, c'era una volta in Giappone, che porterà alla scoperta di fiabe e leggende del paese del sollevante narrate e interpretate da Miriam Pachor e Michele Marolla. Si conclude More Than Jazz alle 21.30 a Palazzo Morpurgo a Udine, Francesco Bearzatti al sassofono e Federico Casagrande alla chitarra. Alle 20.45 nella corte del cortile parrocchiale di Passons si esibisce il trio formato da Dario Carnovale, Simone Serafini e Jacopo Zanette. A Tarvisio alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, concerto dell'Orchestra da Camera del Friuli, Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, partecipazione della mandolinista Annalisa Desiata. Al via la 6ª edizione del Muia Baskers Festival, la festa del circo contemporaneo del teatro di strada che fino a domenica animerà Muggia con 38 appuntamenti messi in scena da 8 compagnie della scuola di circo Flick di Torino. Artisti provenienti da Argentina, Austria, Belgio, Cile, Guatemala, Inghilterra, Messico, Spagna e Svizzera. Le performance, per lo più a ingresso libero con biglietto a 2 euro, avranno luogo nei 6 spazi di Piazza Caliterna, Piazza Marconi, Teatro Verdi, Biblioteca Comunale, Oratorio Penso e Saldemar. Costruiamo ponti tra gli uomini e i popoli, lo slogan del Festival del Folklore che si svolge a Gorizia da oggi fino a domenica, si inizia alle 17.30 nella zona pedonale del centro, questa sera il concerto Free Voices con l'esibizione anche dei gruppi folcloristici di Georgia, Colombia e Uruguay. Sono le 7.49, diamo uno sguardo ai giornali in edicola. Il Piccolo di Trieste apre con il corteo per la varsila del 7 di settembre. La città si faccia sentire, il titolo, chiedono i sindacati, sfilata dal Foro Ulpiano a Piazza Unità. Uno sciopero a scacchiera per bloccare i motori da EV e la strategia per far pressione sull'azienda. La fotonotizia di centropagina con la musica fuori controllo in centro, sequestri in 2 locali e l'esito dell'indagine acustica fatta scattare dalla procura in via Torino. Il capocronaca di Trieste apre con la riqualificazione urbana della città dall'ex Maddalena al Palazzo delle Ferrovie in Campo Marzio. I privati cambiano i rioni della città, scrive il giornale. Nel giro di un anno 6 grandi interventi edilizi toglieranno diverse aree dal degrado sia in centro che in periferia. E poi si parla delle nozze carsiche al via ieri sera tra feste e antichi riti. Ospite d'onore alla cerimonia di domani il presidente della cerimonia di sabato, il presidente della Slovenia Boris. La disinfestazione per combattere il West Nile virus in apertura sul Messaggero Veneto di Udine, poi nella fotonotizia il violento scontro di ieri ad Amaro tra un trattore e un'auto. Nella cronaca di spalla, 3 furti a segno in un palazzo di Viale Volontari della Libertà, in taglio alto la produzione industriale in crescita e la richiesta di indennità dei sanitari esposti a rischio Covid, tema questo che apre la cronaca cittadina ed è trattativa con il sindacato. Accanto anche l'avviso di reclutamento dell'azienda sanitaria per 8 infermieri pediatrici. In taglio basso, in prima, i 99 anni di Paola Del Din, medaglia d'oro al valore militare. West Nile, 5 ricoveri, 2 gravoli, titola invece il Gazzettino dopo le proteste dei sindaci friulani per il ritardo nella comunicazione, parte la campagna di disinfestazione. 1000 contagiati dal coronavirus fra il personale, si parla anche qui dell'indennità per i sanitari. Nella fotonotizia alla vendemmia, sparite le preoccupazioni. Di spalla la politica con le presentazioni di Lega e Terzo Polo. In taglio basso il calcio, allenamento a porte chiuse in vista della sfida dei bianconeri di domani a Monza. L'apertura della prima pagina del Piccolo Edizione di Gorizia è dedicata al divieto di balneazione a Marina Iulia, spiaggia chiusa, nave bloccata in porto, partite le indagini della Capitaneria per inquinamento, il Borino ha complicato la situazione. E poi la fotonotizia di centro pagina che mostra due turisti che osservano con il binocolo le prove generali dell'air show che si sono tenute ieri a Grado, oggi lo abbiamo detto, l'esibizione vera e propria. La pagina della cronaca cittadina apre con le iscrizioni agli asili nido comunali, un bambino su quattro resta in lista d'attesa, 43 le famiglie escluse, e poi l'allarme degli artigiani, bollette insostenibili, non si supera l'autunno, dicono commercianti. Sul Gazzettino di Pordenone in apertura il comandante della base USAF di Aviano: non vi abbandoniamo, promette alla famiglia del 15enne ucciso dall'auto di una soldatessa della base, promette una stretta sull'alcol. Anche qui in taglio basso c'è il calcio con il presidente dei Neroverdi Lovisa che dice: con Di Carlo il nuovo allenatore la squadra sarà una sorpresa. Poi accanto rumore, proteste, denunce, il giudice sequestra un bar, in corso Vittorio Emanuele. Sul Messaggero Veneto, prima pagina simile all'edizione di Udine, ma in alto c'è una grande foto per la veglia di preghiera per il quindicenne travolto a Porcia, oggi i funerali a Pordenone, se ne parla nelle prime due pagine della cronaca cittadina. Di spalle il femminicidio di Bologna, il calciatore arrestato aveva giocato anche nella Sacilese. Poi la bolletta record della luce da 22.000 euro di un albergo in taglio basso a Pordenone, Pordenone legge che partirà da Praga nel segno di Havel. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle ore 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa andranno in onda in replica due puntate delle prediche di un sacrestano immaginario dall'altrettanto immaginario paese di Gargagnà di Sopra, che per necessità si ritrova al posto del parroco e intrattiene i suoi paesani con gran schiettezza ed un linguaggio spesso irriverente. Alle 11.19 circa andrà in onda Vintage. Programmi regionali tornano poi alle ore 14. È tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale. In regia Eugenio Giuffrida e Mauro Coloni. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Da Anna Vitaliani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.